Visionare il cinema su Radio Onda Rossa, giovedì 7 aprile del 2016. Ora un video che però riguarda un'esperienza teatrale, quella di Margine Operativo, che dovrebbe essere in linea. Ci sei? Sì, ci sono, ciao. Ciao. Allora, un appuntamento non era in programma, in scaletta, ma mi è arrivata questa segnalazione per la presentazione di un video che vi riguarda nella giornata di domani nel quartiere del Pigneto a Roma, giusto? Sì, giustissimo. Domani alla Biblioteca Goffredo Mameli presentiamo alle ore 17 un video che è dedicato all'esperienza europea di Contazone. Contazone è un progetto che è stato finanziato da Europa Creativa e che condividiamo insieme ad altri partner, quindi insieme ad un tradotto teatro e poi insieme a una realtà tedesca che lavora a Francoforte, che è Propagon, e una realtà inglese che lavora a The Yarmouth, una regione di Norfolk, che si chiama Sea Change Arts. E Contazone è tutto un progetto che si è sviluppato da maggio dell'altro anno, e il titolo completo è Contazone Performance Arts in Urban Space, quindi dedicato proprio alle azioni e le performance artistiche in relazione con gli spazi urbani e con le persone che attraversano quegli spazi urbani. E questo video racconta un po' questo viaggio che ha attraversato quattro luoghi diversi in Europa, quindi Roma, Borgo Velino, che è un piccolo invece paesino in provincia di Rieti, Francoforte e Greti Yarmouth, con delle azioni artistiche tutte specifiche, tutte in spazi urbani, e con una grande attenzione a come si può creare delle cooperazioni, diciamo, delle buone pratiche di relazione, di cooperazione tra appunto arti performative del contemporaneo, gli spazi, location inusuali e soprattutto il pubblico, i nuovi pubblici che si possono andare a intercettare in questi luoghi. E domani, oltre alla presentazione del video, c'è un momento anche di, diciamo, incontro, non è esattamente un convegno, è più un incontro, una riflessione e un confronto tra, diciamo, una serie di operatori che abbiamo invitato proprio a parlare di arti performative, spazi urbani e nuovi pubblici. E con noi ci sarà, oltre il partner tedesco di Francoforte, ospitiamo pure una realtà molto interessante a nostro avviso di Gorizia, che è Invisible Cities, che è, diciamo, è tutto un progetto anche quello multimediale, multidisciplinare, che lavora tutto negli spazi di, diciamo, della città di Gorizia, città particolare perché appunto poi è a metà tra Italia e Slovenia, quindi insomma ha tutta una, diciamo, una particolarità. E anche lì è un progetto tra l'altro che guarda molto all'Europa, che qui ha intercettato, diciamo, molti artisti europei. E poi con noi abbiamo anche gli Under 25 di Dominio Pubblico, che è un progetto tutto dedicato e gestito dagli Under 25, che l'altro anno sono stati coinvolti in Contazone, hanno gestito il blog, diciamo, del progetto di Contazone, raccontando in maniera totalmente autonoma e indipendente, attraverso il loro sguardo, attraverso questo blog, un po' il percorso del progetto. E quindi abbiamo invitati a parlare anche della loro esperienza con, diciamo, il progetto di Contazone. E poi abbiamo la presenza anche di Marzia Santone, che invece gestisce il desk Italia di Europa Creativa. Europa Creativa chiaramente per noi è stata una buona occasione questa volta per riuscire ad allargare un lavoro che come Marzia Operativo facciamo da anni, di relazione con gli spazi urbani, però anche in una visione più europea, e anche di una possibilità per creare un network più forte con dei partner europei. Quindi chiaramente tutto inizia alle 5, ingresso assolutamente gratuito, dopo c'è un aperitivo da tuba, quindi c'è anche questa parte più, diciamo, sociale, relazionale. Offriamo un aperitivo a tuba che si trova a Tuba Pazza, si trova proprio di fronte all'ingresso della Biblioteca Mameli, sempre all'isola pedonale del Pigneto. E tra l'altro abbiamo scelto la biblioteca perché in realtà al Pigneto sono state fatte una serie di azioni di Contazone, e quindi è una, diciamo, è stato un territorio che è stato coinvolto sia da attraversamenti multipli quest'anno e che da Contazone, e quindi abbiamo un po' ci sembrava che avesse un senso anche immaginare questo momento di incontro e dibattito in un luogo pubblico come una biblioteca comunale, che però già è stata attraversata da questo progetto. Quindi Biblioteca Comunale del Pigneto a partire dalle ore 17, e ci dai a questo punto anche i riferimenti online per la vostra attività? Allora, di questo Contazone trovate tutte c'è un sito dedicato chiaramente, oltre alla pagina Facebook e Twitter, allora il sito è contact trattino alto, no, quello basso, zones con la S finale punto eu, e chiaramente trovate anche il link del nostro sito che è marginoperativo.net, però c'è proprio un sito, diciamo, che quello di ContaZone, che lo trovate, dove, insomma, ci sono tutte le informazioni, i video, le cose, diciamo, multimediali. Tra l'altro domani, oltre al video, presentiamo il DVD multimediale che contiene sia questo video che domani proiettiamo, ma anche tutta una serie di altri contenuti sul progetto, tra cui tutta una serie di slide, di foto di ogni città coinvolta, delle azioni del progetto, che sono azioni artistiche, performance site specific, residenze artistiche dinamiche, che significa che il progetto ha ospitato una serie di ensemble di artisti che hanno lavorato direttamente negli spazi urbani per presentare le performance, quindi un lavoro molto forte rispetto anche ai luoghi che l'accoglievano e anche di, diciamo, creazione di relazione con le persone. Un altro luogo che è stato toccato a Roma, per esempio, è stato Largo Spartaco, dove è stato fatto tutto un progetto ottobre 2015. Mm-hmm. E diciamo, su questo DVD multimediale, appunto, oltre al video, c'è una serie di altri contenuti. Quindi domani presentiamo questo, diciamo, prodotto che racconta un po' il percorso di ContaZone, e poi c'è questo momento di confronto che chiaramente, come dicevo prima, è tutto ingresso gratuito dalle 17, come dicevi tu, via del Pigneto 22. Benissimo, un saluto. Grazie per lo spazio. Ciao. Margine Operativo per la presentazione, appunto, di un video domani dalle 17 alla Biblioteca Comunale del Pigneto. Eccoci con Riccardo Costantini, coordinatore della nona edizione del festival Le Voci dell'Inchiesta a Pordenone, dal 13 al 17 aprile prossimi, quindi dalla settimana prossima, mercoledì, ma visto che la trasmissione va in onda il giovedì, oggi era l'ultima puntata utile prima dell'inizio. Riccardo, ben ritrovato su queste frequenze. Grazie, un ciao a te e ovviamente un saluto a tutti gli ascoltatori. Un festival che ha già un titolo che ci interessa direttamente, poi noi curiamo in particolar modo il documentario, per cui tutto capita a puntino, diciamo. Nona edizione, Le Voci dell'Inchiesta, raccontaci un po' di questo progetto. Ma 9 anni di un tentativo, quando abbiamo fatto le prime edizioni, lo era almeno un tentativo, adesso è una realtà, di portare a conoscenza del vasto pubblico italiano un genere come il documentario, che continua a essere abbastanza bistrattato e per il quale manca spesso una distribuzione adeguata. E questo perché convinti che nel documentario, in particolare negli ultimissimi anni, si vedano le cose più belle a livello proprio, direi, cinematografico che ci sono in giro. Mm-hmm. Il cinema di fiction è un po' in crisi, non ha più grandi capacità di raccontare l'attualità, le ha invece il documentario, che si è fatto fresco, si è fatto pieno di creatività, di giovanissimi registi intelligenti, e quindi cerchiamo di selezionare il meglio da tutti i festival del mondo per portarlo a Pordenone per 5 giorni, che sono pienissimi poi di proposte. Senti, quindi dai festival di tutto il mondo, quindi provenienti da più paesi le opere presentate, e intanto quante sono quelle di questa 5 giorni? Allora, andiamo, quest'anno abbiamo oltre i 35 film che ci sono più di 50 eventi, perché in realtà una delle caratteristiche della manifestazione è quella anche di accompagnare i singoli film, ovviamente la cosa più semplice è con la presenza del regista o del cast produttivo e tecnico, ma soprattutto di cercare di approfondire i temi di attualità per far sì che il film sia uno strumento per poter poi parlare di altro, e il tutto, fra l'altro, senza ambizioni di dare delle risposte, diciamo, magari alle molte domande che si possono avere al giorno d'oggi, ma di offrire un vero e proprio strumento, ecco, una sorta di finestra sul mondo, perché il pubblico poi se ne vada a casa con magari anche qualche domanda in più, qualche incertezza in più, ma se non altro anche qualche elemento di approfondimento e di arricchimento. Oh, Riccardo, sono i criteri di selezione sono stati esclusivamente qualitativi o avete anche seguito dei filoni tematici? Entrambe le cose, perché il momento ci è sembrato veramente denso di proposte e quindi di base quello che vedremo quest'anno sono, proprio usando un aggettivo che spesso è banale e abusato, sono davvero però bellissimi. Cioè, la sensazione che abbiamo avuto è che lavorando così tutte le varie giornate, lavorando il programma, non ci fosse un film che era inferiore agli altri, ed è stato veramente complicato anche per questo scegliere a quali dare la precedenza. Dall'altra parte ci sono tutta una serie di tematiche di estrema attualità che ci sono sembrate anche urgenti. Ne dico una, anche in questo caso può essere una banalità, ma a nostro avviso invece c'è proprio necessità di soffermarsi. Penso ai migranti, per cui avremo una serata con l'anteprima nazionale di Walls, che è un film davvero pazzesco nel senso proprio del termine, perché i due registi spagnoli che l'hanno realizzato, che si chiamano Pablo Iraburu e Miguel Molina, hanno davvero viaggiato per un lungo periodo accanto ai migranti che tentano di valicare i principali muri che dividono spesso nazioni e confini e che stanno risorgendo proprio in questo periodo, fra Messico, fra Palestina e Israele, ovviamente fra paesi africani e le enclavi spagnole, e purtroppo anche i muri che sappiamo di recente rapidissima costruzione. Sì. Questo è un tema ovviamente che ci sta molto a cuore, poi lavoriamo in una regione di frontiera come il Friuli Venezia Giulia, però per esempio abbiamo voluto trattare anche le nuove famiglie. Ci è sembrato che in tutto questo dibattito, soprattutto politico, fatto da adulti, mancasse una voce chiave, cioè quella dei bambini, per cui presenteremo un bellissimo film molto toccante, delicato, che si chiama Gay by Baby e che racconta come in realtà i bambini sono semplicemente i bambini, anche se sono figli di coppie omogenitoriali. Poi ce n'è davvero di tutti i colori. Abbiamo l'anniversario di Chernobyl, perché purtroppo non ce lo ricordiamo, ma sono passati 30 anni da Chernobyl, e altrettanto l'anniversario del terremoto del 76 in Friuli Venezia Giulia, con un ospite eccezionale che è Gianni Minà, che sarà mattatore della serata inaugurale del festival. Tra l'altro interrompo un attimo per Chernobyl, perché ne parleremo tra poco con I Wonder Pictures, che distribuirà Il complotto di Chernobyl, che arriva in sala anche qui in Italia, quindi insomma. Sì, che è infatti un film che abbiamo inserito all'interno del programma, sia perché abbiamo un rapporto con I Wonder e col Biography Festival da tempo, ma anche perché avremo con noi Pierpaolo Mittica, che è un grande fotografo di fama internazionale, che ha lavorato, è uno dei pochi a aver lavorato fotografando le principali località interessate da disastri nucleari negli ultimi 50-60 anni, perché lui è stato sia a lungo sul sito di Chernobyl, è tornato tantissime volte, è stato sul sito di Mayak, che è un'altra tragedia nucleare di cui non si sa più o meno nulla, sempre ovviamente in ex Unione Sovietica, ed è stato uno dei primi ad andare a fotografare a Fukushima, che in realtà è la tragedia nucleare più recente. Sì. Per cui con lui faremo, questa è anche una caratteristica poi del festival, abbiamo anche workshop, abbiamo seminari e occasioni di approfondimento, faremo un percorso proprio tramite le fotografie che fa un po' da corredo a The Russian Woodpecker, Il complotto di Chernobyl, per offrire al pubblico un'occasione di riflessione su un evento che poi ha avuto anche molta influenza sulla storia successiva della nostra parte d'Italia, perché siamo stati molto interessati al passaggio della nube di Chernobyl. Ci dicevi delle 35 opere da diversi paesi, ci sono aree geografiche più vivaci da questo punto di vista? Ma guarda, in maniera assolutamente imprevista e insolita abbiamo selezionato diversi lavori da Israele. Molti, fra l'altro con proprio roccaforte Tel Aviv, che continua a essere una città piena di fermento evidentemente, molti lavori realizzati da israeliani che necessariamente lavorano in tutt'altro contesto, per cui in particolare i migranti, la Russia dei neonazisti. Avremo l'anteprima nazionale di Credit for Murder, che è un film girato appunto da un israeliano che si chiama Vladi Antonievich, è un ex soldato israeliano ebreo e si è infiltrato per 6 lunghi anni nelle comunità neonaziste in Russia, E al di là della storia ovviamente sua personale, insomma è un paradosso totale, i rischi che ha corso sono incredibili, svela le contraddizioni della Russia e la collusione in particolare di Putin con i nuovi movimenti neonazi che sono estremamente violenti quotidianamente nelle strade della Russia, proprio anche per autorizzare una sorta di potere forte che in qualche modo possa rispondere. Devo dire che abbiamo spazio anche per un paio di cose italiane, avremo l'anteprima di Dirt di Stefano e Mario Martone, l'anteprima nazionale, che è un film dedicato a un'altra diciamo così terra, è un altro anniversario che ci piace ovviamente ricordare, che è quello di Srebrenica, che si è celebrato l'anno scorso, quindi dell'unico vero grande olocausto post seconda guerra mondiale. In questo caso il film di Mario e Stefano Martone ci racconta una bella storia, che è quella di una cooperativa che ha fatto riscattare la popolazione in loco intorno a Bratunac e Srebrenica in particolare. Insomma, c'è di tutto un po', e l'invito poi generale al pubblico che verrà per la manifestazione quello di selezionare, perché è difficile vedere tutto e ci sono molti temi molto diversi. Ci dai tutti i riferimenti internet, Riccardo? Sì, ovviamente si trova tutto quanto online, il sito è www.voci-inchiesta.it, c'è una pagina Facebook omonima. Il programma è perfettamente navigabile già online da alcuni giorni. L'invito, anche per la grande quantità di richieste che stiamo avendo in questi giorni e di informazioni sui biglietti, è di acquistare quanto prima gli accrediti al festival per ritagliarsi il proprio spazio all'interno di questa particolare manifestazione. Un abbraccio e risentirci presto. Un abbraccio a te e un saluto a tutti gli ascoltatori. Ciao Riccardo. Ciao, grazie di tutto, a presto. Riccardo Costantini, coordinatore della nona edizione del festival Le Voci dell'Inchiesta a Pordenone dal 13 al 17 aprile. In collegamento con Filippo Soldi, regista del documentario Non so perché ti odio, tentata indagine sull'omofobia, che sarà programmato mercoledì prossimo all'Aquila, mercoledì 13 aprile. Filippo, ben ritrovato a Visionari su Radio Onda Rossa. Ben trovati a voi. Allora, è sempre un piacere, un documentario che ho avuto modo di vedere, raccontiamolo un po' a chi ci ascolta. Sì, allora il documentario nasce da una domanda molto semplice che è: ma perché da sempre tanto fastidio e tanta ostilità verso il comportamento omosessuale? Ora, questo fastidio e questa ostilità non necessariamente si traduce in aggressione, magari anche in una smorfietta, anche in un leggero disgusto, diciamo, no? Ecco, ma perché? Qual è il motivo? Questo comportamento è presente da sempre nel comportamento umano, da sempre anche in tante specie animali. Quindi non capisco perché contro questa cosa così tanto furore, diciamo, ecco. E quindi il documentario cerca di rispondere a questa domanda. Sì, sì. Senti, nel tuo lavoro ci sono anche interessanti interviste a organizzazioni o associazioni o similari che comunque hanno delle posizioni omofobe e comunque le argomentazioni sono spesso confuse o risibili. Guarda, allora io ho incontrato, allora chiaramente vista la domanda, l'unica possibilità di sviluppo del lavoro era quello di andare a fare questa domanda proprio a chi si fa ancora portatore di una posizione come questa, appunto di ostilità o comunque di critica. Quindi io per forza sono andato, cioè ho cercato proprio di intervistare le persone che portano avanti un discorso, definiamo, omofobo. Allora, io proprio cercavo di farmi dire da loro il perché gli dà fastidio che due persone omosessuali si possano sposare, ma in realtà secondo me appare che di ragioni loro non ne hanno. Cioè, poi non metto in dubbio, ognuno è libero di pensare quello che vuole, però mi sembra che da quello che hanno detto a me siano dei pensieri che non hanno nessun motivo. Quindi sì, è quello che mi hai detto tu. Credo che sia per il fatto che motivi razionali in realtà non ce ne sono per un atteggiamento di questo genere. Oh, specifichiamo anche a chi ci ascolta che non è esclusivamente dedicata a interviste a loro il documentario, ma ci sono anche persone che hanno subito aggressioni, per esempio. Sì, perché io volevo il racconto di quello che può subire una persona omosessuale, e anche perché volevo che ci fossero dei fatti reali, accaduti, concreti, raccontati da chi li ha subiti, anche per evitare come dire la frase "ma tanto cosa volete, ormai in Italia non c'è più omofobia, ormai in Italia non", ecco. Proprio per evitare questa obiezione sono andato a cercare persone che hanno subito recentemente aggressioni piuttosto che insomma cose anche più gravi, e ho cercato di mettere le loro testimonianze per raccontare proprio come si sono svolti i fatti, dove si sono svolti. Quindi da una parte abbiamo delle opinioni che guidano un pensiero, e delle opinioni che secondo me non trovano nessuna base nella realtà e nella ragione. Dall'altra abbiamo dei fatti raccontati per come sono successi e basta. Senti, il titolo, il sottotitolo "Tentata indagine" si riferisce proprio a quelle mancate argomentazioni che non hanno saputo fornire gli omofobi? Ma guarda, in realtà no, è tentata perché quando io stavo lavorando a questo documentario, una delle cose che mi sono sentito dire più frequentemente è l'omofobia non esiste, non c'è, è tutta una creazione della lobby gay, ma nessuno ce l'ha con i gay. Questo è quello che io mi sentivo dire nel momento in cui cercavo, contattavo le persone e gli raccontavo il progetto. Voglio precisare che io non ho mai usato il termine omofobia, un po' perché non devo essere io a, come dire, a giudicare il pensiero di un altro, ci penserà lui stesso a proporre il suo pensiero e quindi a farlo apparire per quello che è. Quindi io dicevo, sto facendo una ricerca su come viene vissuto il tema dell'omosessualità in Italia, insomma, dagli italiani, ecco. Filippo, per saperne di più su un calendario di proiezioni o su altre iniziative che riguardano questo documentario in rete, dove si può cercare? Sul sito della casa di produzione, che è Movimento Film, che è www.movimentofilm.it, e lì sicuramente si trova tutto. Poi c'è una pagina Facebook proprio di "Non so perché ti odio", dove solitamente insomma mettiamo tutto. Sarà proiettato, comunque già lo dico, adesso appunto viene proiettato all'Aquila mercoledì 13 aprile. Poi il 17 maggio, in occasione della giornata mondiale contro l'omofobia, verrà proiettato a Verona. Luogo importante. Sì. No, infatti mi fa molto piacere. Devo dire che ha girato parecchio per l'Italia, parecchio, insomma. Stiamo parlando di un prodotto fatto anche con fatica, nel senso che avevamo risorse molto limitate, quindi anche nella promozione, come dire, è una cosa molto fatta da noi, ecco, però sono contento perché vedo che suscita interesse e fa comunque nascere un pensiero. Era un po' lo scopo, nel senso che io mi rendo conto di, con questo documentario, di non aver cercato in nessun modo di piacere o di rendermi simpatico. Il documentario io ho cercato di farlo in modo quasi scientifico, perché per me è un oggetto di ricerca, è una domanda che ci si deve porre, proprio ce la si deve porre culturalmente, storicamente. Non c'è nessun motivo per cui ad un certo giorno qualcuno si è svegliato e ha detto l'omosessualità è contro natura, non c'è proprio nessunissimo motivo, cioè non si devono concedere diritti alle persone omosessuali, si deve smettere di negarglieli. Certo. Cioè non è la negazione di questi diritti che è contro natura. Filippo, in chiusura volevi segnalarmi anche un'altra cosa, giusto? Sì. Questa, la ricerca di Non so perché ti odio, è partita da un mio precedente documentario di cui abbiamo parlato anche insieme, che è Case chiuse. Era un'indagine sui bordelli nella storia. In quel caso, in quel documentario, io ho intervistato Eva Cantarella, un'esperta della sessualità nel mondo antico, che mi raccontava che ad un certo punto furono promulgate le prime leggi che punivano l'omofobia, punivano il comportamento omosessuale, parlo del territorio italiano. Queste leggi sono circa del 330 d.C. Ed è da questa sua da questo suo spunto io sono partito poi per la ricerca di Non so perché ti odio, e questo documentario mi fa piacere perché insieme, mentre sto portando uno a un festival, ecco, quest'altro, Case chiuse, è stato preso su Indie Channel TV, che è una TV on demand dove chiunque può andare e scaricare. Benissimo, allora Filippo. Ci sentiamo per le prossime novità. Va bene, spero di averne. Noi ti seguiamo, speriamo, insomma. Sì, speriamo di andare avanti, ecco. Ok, un abbraccio e a presto. Un abbraccio anche a te. Ciao Filippo. Ciao, grazie. Filippo Soldi, regista del documentario Non so perché ti odio, tentata indagine sull'omofobia, che sarà programmato all'Aquila il prossimo mercoledì 13 aprile. Bene, allora siamo in collegamento con Albert Bucci, direttore del Soundscreen Film Festival, che si svolgerà a Ravenna dall'11 al 16 aprile, quindi da lunedì prossimo della prossima settimana. Questa è Visionari su Radio Onda Rossa, il cinema, tutti i giovedì dalle 14 alle 15, anche se oggi abbiamo uno speciale, vista il buco di redazione di questa mattina, abbiamo un paio d'ore per curare la nostra lunga agenda di ospiti. E dovremmo essere in linea con Albert. Ci sei, Albert? Ci sono, grazie Federico e grazie a tutti i radioascoltatori. Allora, Soundscreen Film Festival ci interessa molto perché, come forse ricorderai, abbiamo a seguire una trasmissione Tracce di Cinema che si occupa proprio del rapporto tra la musica e il cinema, sulle colonne sonore dei film sostanzialmente, e quindi va da sé che questo festival è pane per i nostri denti. Allora Albert, raccontaci un po' di Soundscreen. Ma già hai anticipato qualcosa, nel senso che anche la vostra rubrica, il vostro programma, sa che esiste una forte relazione storica tra due arti popolari e insieme di ricerca, il cinema e la musica. In qualche senso si parte dalle proprie passioni personali, ma si elabora anche un pensiero, e cioè la musica è un elemento del cinema, non è qualcosa che si aggiunge dopo perché è più carino, no. Il grande film contiene grande musica, la musica è un elemento importante, la sonorità nel cinema è fondamentale. Partendo da questa minima riflessione, ho creato questo nuovo format di festival dedicato ai film che hanno in qualche modo come protagonista la musica. E quindi certamente partiamo come idea delle colonne sonore, film in cui la colonna sonora non è buttata lì, ma è pensata, meditata. Pensiamo semplicemente a Tarantino. Ma non solo, ci sono poi film in cui i protagonisti veri o inventati sono musicisti. Possono esserci poi i grandi documentari sulle grandi band rock o sui grandi cantanti, e così via. Insomma, il punto essenziale è cinema che in qualche modo ha come protagonista la musica. Questo è il concept globale. Albert, come dicevi prima, si va da un estremo all'altro, c'è una vasta gamma rispetto al rapporto tra musica e cinema, perché ci sono dei, ne abbiamo avuto esperienza e testimonianza diretta dai compositori, ci sono film che vengono poi e fatti vedere ai compositori che a film già realizzato dovranno e si devono arrangiare sulle musiche. Ci sono registi che invece si accompagnano da subito ai compositori, agli autori di musica e con loro costruiscono il film. Lo so, ci sono vari modi di gestire la cosa. Credo che ovviamente un grande regista pensi in anticipo anche quello che vuole commissionare a livello musicale. Penso questo, ed è qui che appunto interviene la ricerca. Noi proporremo un cartellone ampio, ma in cui questo rapporto tra cinema e musica viene sviscerato. Non fosse altro per citare il grandissimo John Carpenter, che è uno che si compone le sue musiche, per esempio, ma anche penso, non so, a Jim Jarmusch, che è anche un musicista, o a un Martin Scorsese che è fanatico di rock, se ci fate caso. In qualche modo noi esploreremo ad ampio raggio tutta questa cosa. Senti, quante sono le opere che presenterete e sulle quali studierete e discuterete? Guarda, sostanzialmente facciamo questo primo anno una ventina di film. Sì. Abbiamo le nostre distinzioni classiche, se vuoi. L'unica cosa classica di questo festival sono le sezioni. C'è un concorso internazionale, film nuovi, inediti, tra cui ti posso dire così, pur parlare, il musical dei Belle Sebastian. Hanno fatto un musical 2 anni fa, God Help the Girl, noi lo proietteremo, scritto e diretto da Stuart Murdoch. Oppure l'ultimo film belgica di Felix van Groningen, l'autore di Alabama Monroe. Ovviamente vi dico che è un film imperdibile sulla storia di un rock club, e così via. Poi ovviamente all'interno del concorso abbiamo opere sconosciute, ma che non per questo non dovranno essere viste, proprio perché le cerchiamo in giro per il mondo. Sì. Poi vabbè, panorama italiano, lì cerchiamo di capire un po' come funziona il film musicale negli ultimi anni in Italia, per cui proietteremo per esempio Numero Zero, il documentario sul rap italiano, in cui abbiamo come ospite anche il grandissimo Frankie High Energy in sala. E il giorno dopo, mercoledì, avremo Complimenti per la festa, il documentario sui Marlene Kunz, e anche lì avremo come ospite Cristiano Godano. E poi ovviamente un grandissimo attore, che è stato un grandissimo musicista, che è morto di recente, David Bowie. Un piccolo omaggio a David Bowie ai film in cui fu protagonista. Furio, Miriam ci sveglia a mezzanotte e L'uomo che cade sulla terra. L'uomo che cade sulla terra. Albert, mi dicevi che anche articolato ci sono ospiti, non ci sono solo le proiezioni. Ci spieghi un po' come si svolge la giornata tipo di questo festival? La giornata tipo è un po' di film in pomeriggio, tipo concorso retrospettiva o panorama, e poi un evento serale con ospite. In questo caso abbiamo come ospite un Frankie High Energy con un documentario, e a seguire un altro film del concorso. Nel weekend però facciamo anche quelle che io chiamo le sound screen session, che sono, come dire, gli incontri. È un'ora di incontro in cui c'è qualcuno che o parla di film o suona un pezzo musicale. In qualche modo creiamo un contenitore un pochino più attrattivo e anche un pochino più gratificante per chi viene, ma anche per chi lo fa. Quindi c'è anche la musica vera e propria, insomma. Sì. Ah no, dimenticavo la la sonorizzazione. Last but not least, ho sempre creduto anche in altri festival nelle sonorizzazioni dal vivo dei film muti, ma non fatte con l'orchestra classica noiosa, scusate il termine noioso, ma io amo la classica. Però diciamo così, mi piace vedere cosa succede quando una band contemporanea affronta un film del passato e lo prova a sonorizzare a modo suo. Quest'anno avremo un capolavoro del cinema muto, L'Inferno di Dante, 1911, un colossal dell'epoca, sonorizzato dal vivo dalla Byzantium Experimental Orchestra di Bruno Dorella, Ronin Ovo, Pacchi da Pietra e Ricola Manzan, Bologna Violenti. Bene. Questo giovedì 14, in diretta, live concert. Bene. Albert, ci dai tutti i riferimenti internet? www.soundscreen.org. Benissimo, un abbraccio, grazie. Un in bocca al lupo e alla prossima. Grazie mille. Magari proprio ospite della nostra Tracce di Cinema, per parlare del rapporto, grazie. Magari di un film specifico. Quando volete. Benissimo. Quando volete. Albert, ciao, a presto. Grazie. Albert Bucci, direttore del Soundscreen Film Festival a Ravenna dall'11 al 16 aprile. In linea abbiamo Giuseppe Casu, regista del documentario Il presagio del ragno, che sarà in programma al Festival Israel a Nuoro il 9 aprile, cioè dopodomani, sabato 9 aprile. Giuseppe, ben ritrovato su queste frequenze. Salve a voi e a tutti. Allora, Il presagio del ragno, spiega un po' anche questo titolo a chi ci ascolta. Beh, dunque, il titolo fa un giro un po' largo su questa avventura insieme ai tonnarotti di una delle ultime tonnare in attività nel Mediterraneo, nell'isola di San Pietro in Sardegna. Il ragno, diciamo che è una sorta di immaginario che viene abbastanza facilmente vedendo questi uomini al lavoro con le reti, e soprattutto perché di fatto preparano una trappola in attesa del passaggio della preda, in modo simile a quello che fa il ragno, se vuoi. Mm-hmm. Senti... il presagio invece è legato al fatto che questa attività antichissima negli ultimi 50 anni ha visto un crollo e una scomparsa dall'economia reale della pesca. E quindi quando i pescatori hanno cominciato a vedere che i tonni non venivano più catturati nelle loro tonnare, io ho immaginato che sentissero questo presagio brutto, che sarebbero cominciati i tempi duri ben presto, cosa che poi è successo, insomma. Mm-hmm. Quindi c'è molto dell'immaginazione in questo titolo, che comunque non voleva essere descrittivo. Tra l'altro ci sono diversi, nel corso degli ultimi anni, diversi documentari abbiamo ospitato, ne abbiamo ospitato gli autori che si sono occupati proprio della pesca del tonno in vari luoghi del sud dell'Italia, e chiaramente tutti hanno parlato di un settore in crisi, soprattutto per la pesca industriale. Sì, cioè crisi adesso... La realtà delle cose, vabbè, non sono il più esperto per parlare di problemi, diciamo, tecnico-economici della pesca del tonno, però il tonno rosso di fatto in Italia si pesca col vecchio sistema della tonnara fissa, solo in due tonnare che si trovano in Sardegna, sono una fianco all'altra, praticamente sono quasi familiari tra loro i tonnarotti, mentre invece più dell'80%, circa l'80%, 78% mi sembra, della pesca autorizzata in Italia, all'interno cioè di quella quota che è riservata a ogni paese del mondo, insomma, per pescare il tonno rosso, viene pescata con metodi di pesca in altura, quindi che offrono molti meno sbocchi lavorativi, e soprattutto hanno un approccio alla pesca che è molto meno ecologico e ecosostenibile di quanto non sia una pesca che di fatto consiste nel preparare una trappola e attendere il passaggio della preda. Invece lì, in quel caso, in altura si pesca con le grosse navi e con dei sistemi che catturano anche tonni piccoli e pesci di altro tipo, che poi però insomma non è che si salvano una volta che vengono presi nelle reti, quindi insomma è un approccio diverso, ma il governo italiano da anni decide di riservare a questo tipo di pesca la stragrande maggioranza del suo pescato. Giuseppe, il documentario che tipo di percorso sta facendo? Dunque, il percorso è molto come dire, rarefatto, direi, nel senso che non sta facendo centinaia di festival e successi mondiali, ma lentamente, con delle bellissime proiezioni però, delle bellissime situazioni, sta cominciando a farsi vedere. Allora, la prima proiezione è stata al Cinema Ambiente a Torino all'inizio di ottobre 2015, qualche mese fa, era in concorso lì. Poi c'è stata un'altra proiezione il 20 dicembre a Carbonia, quindi molto vicino in realtà ai luoghi in cui si effettua ancora la pesca del tonno rosso, insomma, cioè Porto Scudo e l'isola di San Pietro, e quindi quella è stata l'occasione per restituire alla comunità quel lavoro e quella generosità che è veramente forte, che mi hanno dimostrato, sia su tutti venire i tonnerotti a vedere finalmente il film di cui non avevano visto quasi nessuna immagine, e per me è stato molto forte, molto commovente, molto soddisfacente, insomma, una bella proiezione, una bella situazione, e soprattutto i protagonisti erano lì, si sono visti, e insomma, sono delle belle soddisfazioni quando si fa un film. E adesso al Festival Israel che si è aperto ieri, qui sta fuori concorso, però ecco, l'ISRE è entrato nella produzione di questo film, e quindi giustamente si è riservato un posto importante per mostrarlo. Comunque un approccio poco narrativo e molto legato al lavoro delle persone, insomma, alla fine si tratta di un film sul lavoro e sulle persone che lavorano, senza fronzoli, diciamo, sì, cercato di mettere meno situazioni, meno condizioni al contorno possibili, per cercare di andare verso quello che a me sembrava il suffo, la cosa interessante, che era stare insieme a loro per mesi, insomma. E poi la restituzione di questo è in questa letta di film che sabato vedremo a Nuoro, sabato mattina. Senti Giuseppe, ci sono anche degli spazi internet per saperne di più su questo documentario? Sì, dunque la produzione esecutiva del Presagio del Ragno è stata effettuata dall'associazione Tratti Documentari, che ha un sito che è molto ben fatto, lo cura Gianluca Stazzi, che è, diciamo, il mio fedele compare di queste avventure, nonché fonico e montatore del suono di grande sensibilità, e sa anche fare i siti per bene, per cui ecco, l'indirizzo è www.tratti.org, e lì, oltre ad altre informazioni, cioè informazioni su altre attività dell'associazione, che comunque è sempre legata, è completamente legata all'audiovisivo, si trovano Facebook, fotografie, commenti sul film, insomma. Benissimo. Allora Giuseppe, un abbraccio e alla prossima. Grazie, un abbraccio a tutti e a presto, grazie. Ciao. Ciao. Giuseppe Casu, di regista del documentario Il Presagio del Ragno, al Festival Israel a Nuoro, sabato 9 aprile prossimo. In collegamento con Francesco Andreotti e Livia Giunti, autori del documentario che sarà presentato questa sera a Roma, all'Apollo 11, per all'interno della rassegna Racconti dal Vero. Il titolo è Love is All, Pier Giorgio Welby, autoritratto. Francesco, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao, buongiorno, grazie a tutti dell'ospitalità. Allora, se non sbaglio, si tratta di un lavoro d'esordio per voi? Per noi, diciamo che è un... intanto, di sicuro come coregia è un esordio, e poi un esordio nel documentario di creazione. Io all'incirca faccio documentari da 15 anni e Livia lo stesso, ci siamo conosciuti su un set di documentario per cui in Corsica diversi anni fa, per cui insomma fa un po' parte del nostro DNA e anche del fatto che stiamo anche insieme, siamo anche una coppia nella vita. Sì, è un esordio. Allora, ci racconti un po' di questo lavoro, come è nato, da quale esigenza e poi come lo avete sviluppato? Allora, la genesi del lavoro è stata un po' particolare, nel senso che sai quelle cose che nascono, che stai facendo totalmente un'altra cosa e poi ti innamori e capisci che la cosa da fare è un'altra. Stavamo facendo un documentario sul falco pellegrino che nidifica nella città di Roma e che caccia sul verano, insomma sui cieli romani, insieme a degli ornitologi. E poi siamo venuti a sapere che Pier Giorgio, questo ti parlo proprio del 2006, siamo venuti a sapere che Pier Giorgio animava, ormai era allettato da diverso tempo, e per cui utilizzava solamente il computer era un elemento per lui, diciamo così, di apertura sul mondo, perché lui è una persona estremamente attiva, sempre estremamente dinamica, estremamente curiosa, per cui questo era un modo anche per partecipare attivamente a una comunità. Poi erano tanti i siti che lui bazzicava, scriveva eccetera eccetera, per cui abbiamo visto che lui postava e animava questo sito di ornitologi e siamo entrati appunto in contatto con questo suo mondo e con questi suoi iscritti, con il suo modo di riflettere sulla vita e sulle cose che ci ha folgorati. Io lo conoscevo appunto, come penso tutti gli italiani, perché era entrato nel 2006 a settembre nelle case degli italiani con la lettera al presidente, dove chiedeva appunto di essere lasciato andare, chiedeva alla politica e al presidente appunto la possibilità di essere lasciato morire. E quindi un'icona, quell'immagine, no, che di un uomo intubato che parla attraverso una voce meccanica, che è quella che ha un po' colpito tutti. Dal momento che abbiamo avuto l'opportunità, abbiamo deciso di guardare dietro l'icona e vedere che cosa si celava dietro a questa immagine. Infatti dietro c'è un mondo incredibile. Ecco, proprio a questo proposito, raccontaci un po' cosa avete scoperto nel documentario. Beh, dunque, intanto c'è da dire che ci siamo rivolti a Mina stava proseguendo l'attività con gli ornitologi, l'abbiamo conosciuta sul tetto della Sapienza all'inanellamento dei pulli del falco e Mina si è mostrata subito disponibilissima ad aprirci l'archivio web, tant'è che ci siamo messi insieme a lei a ripercorrere i luoghi, oltre che la stanza, oltre che a svuotare la cantina, oltre che a frugare negli scritti inediti, perché poi Pier Giorgio Webbe ha pubblicato anche due un saggio e un romanzo, che sono Lasciatemi morire il primo e Ocean Terminal il secondo, sì, sono sì, comunque disponibili. E niente, quindi abbiamo trovato dei materiali anche inediti che ci hanno permesso di poter organizzare un racconto visivo e sonoro senza l'intervento per esempio delle interviste. Abbiamo utilizzato una voce over dell'attore e regista Emanuele Vezzoli, che tra l'altro è anche autore di uno spettacolo teatrale che riguarda la vita di Pier Giorgio, che si chiama Ocean Terminal, e l'abbiamo tra l'altro ospitato qui in radio, lo abbiamo proprio trasmesso, ne abbiamo trasmesso l'audio e quindi quando mi hai detto Ocean Terminal ci sarei arrivato, insomma. Vai continua. Sì, per noi veniamo da Pisa, per cui non è che abbiamo possibilità di ascoltare la vostra radio, però appunto questa è una bellissima cosa se l'avete fatta, sì, perché anche lo spettacolo è veramente intenso, e c'è la presenza appunto di Pier Giorgio. Con Mina che abbiamo fatto? Ci siamo mossi anche per la città, siamo andati nei luoghi che supponevamo lui avesse frequentato, per cui era un po' andare alla riscoperta delle tracce di Pier Giorgio, che è un artista, un pittore, uno scrittore, un fotografo, e da quando si è sposato con Mina, che è avvenuto nell'80, insieme hanno vissuto in un modo incredibile, una casa, non è la classica casa del malato, ma è la casa aperta al mondo. Infatti Francesco Lioce, il nipote di Piero, curatore dell'edizione di Ocean Terminal, lui parlando della camera dello zio, dello zio di Roma, lui è siciliano, dice che era la parte più bella del viaggio ogni volta che veniva in città, perché parlare con Pier Giorgio era un'esperienza sempre incredibile, piena di la sua visione del mondo, piena di ironia, anche non ci prendiamo troppo sul serio, sosteneva. E passava appunto a citare da Leopardi Leopardi è proprio ai classici greci, un malato che viene visitato dai sani per avere delle dritte su come muoversi in questo caos che è la nostra vita. Francesco, la giornata, la proiezione di stasera è un po' più articolata, non ci sarà solo il documentario ma anche un momento di incontro. Sì, stasera all'Apollo 11, che ringraziamo dell'ospitalità, ci sarà anche la Mina Welby, appunto, la sorella Carla, che per noi è stata un'altra figura importantissima per la realizzazione del documentario. E una famiglia che tutta quanta ci ha accolto, e poi il lavoro è durato 10 anni, siamo quasi un po' diventati parenti anche noi, insomma una cosa un po' strana. E poi ci sarà Filomena Gallo, dell'associazione Luca Coscioni, la presidente dell'associazione Luca Coscioni, e Guido Vitiello, che insomma gestirà un pochino i vari interventi. Probabilmente ci saranno anche degli interventi dal pubblico. Francesco Lioce, speriamo che possa intervenire, il nipote di Pier Giorgio, e niente, così. Senti, molto articolata. Senti, avete anche dei riferimenti web per il vostro documentario? Allora, la produzione nostra è una produzione assolutamente indipendente, infatti è durata, sono 10 anni che bene o male siamo dietro a questa cosa, e quindi ovviamente essendo tutto a carico nostro, siamo una piccolissima produzione, abbiamo lavorato con i nostri tempi e anche con i tempi dettati dai materiali e dalle scoperte che abbiamo fatto, perché sinceramente ci siamo trovati spesso anche in difficoltà nel riuscire a creare un lavoro che ci soddisfacesse. Poi questo è successo veramente proprio di recente, prima della presentazione al Festival dei Popoli, dove è stato proiettato in anteprima lo scorso novembre. Praticamente pochi mesi prima, con Mina, appunto, svuotando la cantina, abbiamo trovato degli scritti welbiani, tra cui altri racconti che meriterebbero, secondo noi, di diventare dei cortometraggi o dar vita ad altre opere, ad altre suggestioni. Abbiamo trovato degli scritti che ci hanno ci hanno permesso di raccontare la prima parte della sua vita, ecco. Quindi in questo modo, sempre utilizzando solo suoi materiali, suoi quadri, sue fotografie e soprattutto le sue parole, siamo stati in grado di ripercorrere, senza interventi esterni, senza interviste, con un pochino di azzardo anche sperimentale, di ripercorrere la vita e l'esperienza umana di Pier Giorgio, che appunto parla di eutanasia e di fine vita, ma ripeto, il film si accompagna sicuramente a queste tematiche, ma la figura di Pier Giorgio Welby va al di là della tematica stessa. Mm-hmm. È proprio un metodo che lui insegna di vita, un metodo politico che farebbe bene a molti che si ritengono sani di acquisire. Senti, l'orario è alle 21 per stasera? Alle 21. Benissimo. Stasera, sì. Allora Francesco, un abbraccio e a presto. Grazie mille, e ho sentito, stiamo venendo in macchina da Pisa con un po' un viaggio della speranza, sentivo che è ricchissima la serata romana di eventi e di cose, però volevo spezzare una lancia a nostro favore, veniamo con Livia che è al nono mese di gravidanza, per cui saremo all'Apollo 11 con la speranza di un pienone, ecco. Bene, un abbraccio. Ciao Francesco. Grazie, ciao. Francesco Andreotti, regista, co-regista del documentario Love is All, Pier Giorgio Welby, autoritratto, stasera all'Apollo 11 qui a Roma, all'interno della rassegna Racconti dal Vero. Antonio Morabito, regista del documentario Che cos'è un Manrico, in uscita in sala oggi, giovedì 7 aprile. Ben ritrovato Antonio. Buonasera, ciao. Tra l'altro di questo lavoro ne avevamo già parlato con te proprio in trasmissione. Ricordiamolo a chi ci ascolta, Antonio. Sì, questo è un documentario che avevo fatto 3 anni fa, mentre stavo preparando Il venditore di medicine, il film, e che adesso l'Istituto Luce manda in sala, poi insomma verrà prodotto un DVD, quindi la cosa ci fa molto piacere, perché ci tenevamo particolarmente a far uscire questo documentario, anche perché purtroppo Manrico non ha fatto in tempo a vederlo in sala, però insomma ci teneva tanto. E in qualche modo insomma mi è arrivato, ecco. Mm-hmm. Che racconto, che tipo di racconto è il tuo, Antonio? Diciamo, ho seguito per 7 giorni, per 7 giornate, Manrico, che era un ragazzo distrofico, in giro per Roma, accompagnato dal suo operatore sociale Stefano. E insomma, detto così, potrebbe sembrare una cosa anche un po' pietista, invece non credo affatto che lo sia, anzi sicuramente non lo è. E questo perché Manrico, insomma, e Stefano pure sono due linguacce piuttosto dissacranti, che vanno a toccare i tabù con cui mediamente si approccia alla disabilità, ecco. Senti, che tipo di esperienza è stata per te umanamente? Per me è stata un'esperienza molto molto intensa, e insomma, perché come dire, innanzitutto ho ridimensionato chiaramente i miei problemi, avevo sempre questo confronto con una persona che insomma era abituata a confrontarsi con ben altri problemi, e poi c'è stato un arricchimento proprio su ogni fronte, perché comunque era una Manrico, insomma, una persona dirompente, che ha sempre tanto da dire, e lo dice in un modo talmente personale e incisivo che non può fare altro che lasciare il segno. E quello che ti ha sorpreso di più? Quello che mi ha sorpreso di più è la sua la capacità che insomma compare nello scherzare su qualsiasi cosa, ecco. Mm-hmm. Con questo non voglio dire assolutamente che non avesse insomma angoscia, depressione e così via, però in genere ce l'aveva per cose più relative, ecco. Faccio un piccolo aneddoto. Quando siamo andati a presentare sul Mono il film, durante una tormenta di neve si è fermato il pulmino, il suo furgone, Marico era attaccato al respiratore, per cui era sì un po' preoccupato dal problema, dalla asfissia, diciamo, che poteva, insomma, eravamo lì in panne in autostrada di notte con questa tormenta. Però la cosa che veramente lo angustiava era quanto sarebbe costato il carro attrezzi, perché insomma eravamo in un punto difficilmente raggiungibile, ecco. Quindi dava un valore alle cose a volte molto, molto, molto spiazzante, sempre in modo molto comico. Senti Antonio, che tipo di uscita sarà? Dunque, un'uscita, oggi ci sarà l'anteprima al Cinema Adriano alle 8:30 qua a Roma. Dopodiché qua a Roma sarà in tenitura l'Apollo 11 a Piazza Vittorio, e poi farà un tour di una decina di città. Per adesso c'è Milano, Genova, Bologna, Rimini, Napoli, Firenze, insomma, altre, sempre con proiezioni 6 e 2-3 repliche. Insomma, questo, okay. Questa è la vita che avrà. Senti, dato che ci siamo, sei al lavoro su qualcosa? Sì, sto preparando sempre con Amedeo Pagani un altro film, un lungometraggio. Dovremmo girare insomma a settembre, se va tutto bene, sempre con Claudio Santa Maria, e ci sarà anche Scamarcio. Benissimo. Il titolo sarà Rimetti a noi i nostri debiti, un film sul recupero crediti. Sicuramente avremo modo di riparlarne. Un abbraccio Antonio e a presto. A presto, grazie mille. Ciao, ciao, ciao. Antonio Morabito, regista del documentario Che cos'è un Manrico, in uscita in sala oggi giovedì 7 aprile. Eccoci con Andrea Romeo per parlare di un lavoro che sarà distribuito dai Wonder Pictures. Sto parlando del documentario Il complotto di Chernobyl, The Russian Woodpecker, da oggi giovedì 7 aprile. Tra l'altro abbiamo parlato con Riccardo Costantini per presentare il festival Le Voci dell'Inchiesta e ci ha detto che sarà anche lì. Ci sei? Pronto Andrea? Eccoci, ciao. Ci sono, è un documentario di cui mi sono innamorato un po' di mesi fa al Sundance Film Festival, dove ha vinto il premio del pubblico, così come ha vinto il premio dell'opera prima al Biography Film Festival. Il film è veramente molto creativo, parte da una intuizione di un ragazzo ucraino scampato a Chernobyl, e da questa sua, lui è un artista, siamo tra l'altro nell'anno della rivoluzione ucraina, è un artista che assieme al regista Chad Gracia segue una pista giornalistica su Chernobyl, intervistando anche alti funzionari ex sovietici o ex alti funzionari sovietici, potremmo dire, per cercare di capire che cosa sia il Russian Woodpecker, il picchio russo, una macchina bellica che doveva servire ad azzerare le comunicazioni satellitari, televisive occidentali del blocco NATO, una macchina costruita per anni che doveva andare in funzione proprio qualche mese dopo, e che invece viene bloccata nella sua accensione e nel suo primo test dal tragico incidente del 26 maggio. Di fatto la coincidenza, e da qui poi l'altro titolo del film, Le coincidenze non esistono, la coincidenza tra la messa in funzione della macchina e l'incidente di Chernobyl porta il protagonista ad avere qualche sospetto, e da lì parte un viaggio in cui in realtà la tesi non saprei dire se è esatta giornalisticamente. La cosa sconvolgente è che è plausibile. Senti, ecco, io non ho avuto modo di vedere il documentario, ma solo il trailer, e sembra muoversi un po' tra il documentario e la fiction, una specie di mockumentary, però c'è una base che potrebbe essere vera, insomma. Ma guarda, la cosa allucinante che ti riporta anche diciamo veramente a quegli anni, a come sia stato possibile che per tanti giorni non ci siano state informazioni, insomma, tutto quello che abbiamo vissuto, ed è il trentennale di Chernobyl quest'anno, ed è importante probabilmente anche tornarci sopra. La cosa interessante è che il film poi ti porta su quest'arma, su questo picchio russo, che è un'antenna gigantesca, ma intendo probabilmente di dimensioni colossali, 20 piani, un palazzo di 20 piani all'incirca, ed è un'opera costata tantissimo, oltre il doppio della centrale di Chernobyl. E proprio per proteggere quest'opera, lo diciamo da un paese in cui dei teatri sono poi bruciati e si è scoperto che gli incendi erano dolosi, sarebbe terribile scoprire che Chernobyl è stato provocato. Ma non è, secondo me, e non è questa la cosa che mi ha spinto a distribuire questo, quanto la affascinante ricostruzione e lo straordinario spaccato anche del rapporto tra, di grande conflitto tra Ucraina e Russia, e poi la straordinaria regia di Chad Gracia, che è un nuovo talento scoperto dal Sundance, che sarà con noi in giuria a Biografilm nel giugno prossimo, e che promette un cinema assolutamente affascinante. Ecco, il fatto che sia un artista contribuisce sicuramente alla resa nel film, Andrea? Sì, perché poi Fedor, ancorché molto particolare, diciamo così, molto creativo e complesso, è stato con noi qualche giorno. Fedor ha un percorso artistico molto, molto affascinante, è un artista performativo che aggiunge qualcosa a questo film, tantissimi elementi per un documentario, il complotto di Chernobyl, che è diventato un caso internazionale, che speriamo anche il pubblico italiano possa scoprire in queste settimane. Il film sarà in programmazione solo per le prossime 3 settimane, fino appunto alla data del 26 di aprile, anniversario del tragico incidente di Chernobyl. Senti, per il calendario e la mappatura delle sale in cui sarà in programmazione, si può far riferimento ai vostri canali internet, giusto? Ai nostri potenti mezzi, direi che Facebook ormai è il modo più facile, ma anche su My Movies si trovano tutte le informazioni. Le sale sono in crescita vorticosa, dovrebbe arrivare, spero, in una trentina di città nell'arco di queste 3 settimane. Ieri era a Perugia al Festival del Giornalismo, dove c'è stato un grande evento proprio per anche l'impatto e il taglio giornalistico della vicenda, e sì, sul Facebook di A Wonder Pictures, che distribuisce il film, si trova questo, così come il prossimo film Patricio Guzman, che sarà con noi in Italia dal 25 aprile per La Liberazione, col suo film vincitore del Orso d'Argento a Berlino, La Memoria dell'Acqua, ma ci risentiremo prima di allora. Certo. Un abbraccio, Andrea, un in bocca al lupo. Buone visioni a voi. Ciao, ciao, ciao. Andrea Romeo di I Wonder Pictures sulla distribuzione del documentario Il complotto di Chernobyl, The Russian Woodpecker, in uscita in sala oggi, giovedì 7 aprile. In linea abbiamo Antonio Adinolfi di Videa sulla distribuzione del film Mister Chocolat in uscita in sala oggi giovedì 7 aprile. Antonio, ben ritrovato a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie, grazie dell'invito, buon pomeriggio. Tra l'altro al film abbiamo dedicato l'immagine di copertina di questa settimana con una foto d'epoca reale con i due personaggi veri sì, e propri. Bella. Ho visto e ho condiviso la foto. Bene, allora Antonio, per chi ci ascolta, chi è Mister Chocolat? Allora, Mister Chocolat è un personaggio realmente esistito nell'Ottocento francese che aveva un nome invece insomma reale, Raphael Padilla, ed è stato un ex schiavo cubano portato in Francia e diventato il primo artista di colore nella Francia della Belle Époque, prima come circense, come duo diciamo bianco-nero con Fautif, e poi attore di teatro. E da questa storia realmente insomma esistita è stato fatto questo film da Gaumont, un film francese appunto con attore protagonista Omar Sy e Henri Terrier, che è il nipote di Charlie Chaplin, con la regia di Rashdi Zem, che ieri era tra l'altro a Roma a presentare il film all'interno del festival francese di Rendezvous, insomma del gemellaggio cinema francese italiano. Questo in breve è Mister Chocolat. Tra l'altro i due protagonisti si sono impegnati in numeri di vera clowneria. Sì, assolutamente sì. Io credo che il traino vero sia stato proprio Henri Terrier, che è un mimo vero, insomma, sì, per cui sì, abbia si vede, insomma, insegnato, esatto, fatto un po' da tutor a Omar Sy, che già da un punto di vista proprio fisico ha una certa prestanza, una certa familiarità proprio con l'attività fisica, e risultano sulla scena veramente due, sembrano due clown veri e propri, insomma, sì, che hanno sempre fatto quello nella vita. Sì. Oh, tra l'altro questo duo, come ci ricordano i titoli di coda, è stato di veramente di innovazione. Assolutamente sì, assolutamente sì. Ha proprio scardinato diciamo la logica circense dell'epoca, tant'è che poi l'impresario che li aveva visti in un circo di periferia insomma della provincia li ha ingaggiati, li ha portati a Parigi, e da lì l'ascesa verticale verso il grande successo. Come duo sempre, sì, penso sì, che sì, la forza loro era proprio la coppia. Sì, sì. Oh, il protagonista durante insomma le sue vicende trascorre anche una settimana di detenzione perché sì, non è fornito sì, di documenti, e lì c'è sì, una sua presa di coscienza politica anche sì, rispetto al razzismo, il profondo razzismo sì, che ancora imperava insomma nella società francese. Assolutamente sì, nel senso che diciamo la ragione per cui lui viene portato in prigione è perché appunto lo trovano senza documenti, ma essendo lui un come dire un ex schiavo, in realtà documenti non ne ha mai avuti poi nella sua vita reale, e una soffiata lo ha portato appunto a andare in prigione. Lì incontra un personaggio importante che gli apre un proprio il mondo sul fatto che i bianchi accettano i neri, e la negritudine nella misura in cui è funzionale, come dire, al riso, cioè al divertimento del bianco. Quando poi il nero diventa impegno e altro, non accettano questo, non glielo perdonano. Infatti poi il tentativo di diventare attore non gli verrà perdonato nella Francia di quel periodo, e lui morirà in miseria. Senti, la sua figura è stata anche a lungo dimenticata, questo ce lo ricorda sempre il film, nella parte finale è stato riscoperto solo di recente. Sì, assolutamente sì. Credo che, se non ricordo male, il regista aveva letto un libro sulla coppia e lui e lo sceneggiatore lo hanno, come dire, dopo un po' di tempo erano interessati a questa storia particolare. L'hanno ripreso, ne hanno fatto un film in Francia, tra l'altro loro erano stati così famosi, anche lì ci hanno avuto totalmente anni di totale oscurità, fino appunto al rilancio a febbraio del film, che in Francia ha fatto molto bene, nel senso ha fatto 12 milioni di euro con più di 2 milioni di admissions, cui sono un successone. Senti Antonio, per quanto riguarda la distribuzione, in quante sale sarà da oggi? Allora, noi usciremo con 140 copie da oggi in tutta Italia, ed è un film, diciamo, sicuramente di qualità, quindi il riferimento principale è la qualità, però è una uscita abbastanza mista, perché usciremo anche nelle multisale, nel circuito soprattutto UCI, che come sai con Unifrance dà sostegno al cinema francese. Benissimo, allora Antonio, un abbraccio, e a presto. Grazie, al prossimo film che sarà il 5 maggio, Il traditore tipo, dal romanzo di Le Carré. Avremo modo di parlare. Un abbraccio, ciao Antonio. Antonio Adinolfi di Videa sulla distribuzione del film Mister Chocolat, in uscita in sala oggi giovedì 7 aprile. Siamo in collegamento con Roberto Ruta, co-direttore del Festival Middle East Now a Firenze già da due giorni fino al 10 aprile, fino a domenica 10 aprile. Ci sei, Roberto? Sì, buongiorno e buongiorno a tutti i radioascoltatori. Allora, Middle East Now, se non sbaglio si tratta di un festival recente. Questa è la settima edizione, siamo partiti nel 2010. Quindi sì, settima edizione, il Medio Oriente, e quali sono le caratteristiche di questo festival? È un festival che ha nel suo cuore il cinema, quindi è un festival internazionale di cinema con 44 film, la maggior parte in anteprima italiana ed europea, però non è solo cinema, presenta anche fotografia, arti visive contemporanee, musica. Quest'anno la danza contemporanea, per la prima volta presenteremo un progetto di un evento di danza contemporanea, anche cibo, quindi è un festival con diciamo multiartistico, e quindi cerchiamo di raccontare il Medio Oriente attraverso le varie sfaccettature dell'espressione artistica contemporanea, per darne un'immagine che quanto più rappresenti il Medio Oriente contemporaneo, oltre quelle che sono i pregiudizi, i luoghi comuni che normalmente caratterizzano questa parte del mondo, che viene sempre molto spesso raccontata dai media come territori in cui ci sono guerre, scontri, fondamentalismo religioso. Invece c'è molto di più, c'è la vita quotidiana di milioni di persone che cercano di cambiare, di guardare al futuro, a un futuro migliore, ma ci sono anche tanti registi, artisti, fotografi che cercano di raccontare la vita appunto oltre i pregiudizi e i luoghi comuni. Dal punto di vista cinematografico, quante sono le opere da quanti paesi? Presentiamo questa edizione un programma di 44 film tra lungometraggi, documentari e corti, da quasi tutto il Medio Oriente. Bene, bene. Una fascia ampia che va dal Marocco all'Afghanistan, abbiamo cercato di includere tutti i paesi. Forse ne mancherà lo Yemen, l'Oman, ma per il resto insomma i paesi del Nord Africa e del Medio Oriente sono tutti rappresentati, e quindi è uno spaccato della cinematografia contemporanea che viene da questi paesi molto ricco. Infatti è la scena del cinema è davvero molto ricca e ha tanto da offrire anche un pubblico italiano e occidentale. Senti, dal punto di vista degli argomenti, ci sono degli argomenti appunto ricorrenti? Il tema di questa edizione direi che è il filo conduttore. Abbiamo scelto come titolo Live and Love Middle East, vivere e amare il Medio Oriente. Vogliamo raccontare il Medio Oriente contemporaneo attraverso le storie personali di chi abita in Medio Oriente, di chi lo vive quotidianamente, in questo caso registi, artisti, produttori, attori, fotografi, chef, e vogliamo raccontare il Medio Oriente oltre i concetti di negativi che normalmente lo dipingono, quindi oltre i concetti di guerra, di fuga, di macerie, di paura, e invece attraverso le storie personali dei protagonisti che porteremo a Firenze ne emerge uno spaccato di un Medio Oriente diverso, di un Medio Oriente che può essere, che è fatto di quotidianità, di sentimenti, di lavoro, di creatività, di amore, e che può essere una realtà meravigliosa, infatti lo è, perché è una realtà estremamente ricca di stimoli umani, di stimoli culturali, e vogliamo raccontare tutto questo. Roberto, per quanto riguarda la programmazione in rete, dove si può cercare? Sul sito del festival, che è www.middleeastnow.it, lì troverete tutte le informazioni sia del programma cinema che degli eventi speciali collaterali, e lì insomma i grandi ascoltatori avranno modo di vedere la ricchezza del programma. Bene, allora un abbraccio, un in bocca al lupo, ci sentiamo spero per le prossime novità. Crepi, e vi aspettiamo a Firenze per Middle East Now 2016. Ciao Roberto. Grazie mille. Roberto Ruta, co-direttore del Festival Middle East Now a Firenze dal 5 al 10 aprile. Eccoci con Emanuela Piovano, regista del film L'età d'oro, in uscita in sala oggi, giovedì 7 aprile. Emanuela, benvenuta a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie, complimenti, ben ritrovati. Grazie. Allora, L'età d'oro, un argomento che ora racconterai a chi ci ascolta, che però insomma ci sta molto a cuore. Dici un po' di cosa si tratta, Emanuela. Allora, si tratta di una libera ricostruzione, un po' della, così, un omaggio molto, molto trasfigurato di una regista che adesso avrebbe quasi 80 anni, che è Annabella Miscuglio, che è stata una pietra miliare intanto del cinema underground, ma anche della sperimentazione, del documentario con Processo per stupro e con tanti altri lavori fatti nel suo film studio da lei fondato negli anni 60 insieme ad Adriano Pra, Armando Leone, Americo Sbardella, un altro grande mito che era il, insomma, per noi era una sorta di tempio della cultura, di quello che secondo noi sarebbe diventato il cinema, e quindi un omaggio a lei, ma anche a tutte le persone che continuano a tenere aperte queste piccole sale gioiello, a far vedere questi piccoli gioielli di tutto il mondo, e che ci sono sempre più numerose, soprattutto in provincia, ma soprattutto anche in Francia stanno riaprendo molto molto le sale anche in controtendenza, insomma, e quindi il film racconta la storia di Arabella, che è l'esercente di un paesino affacciato su un porto di mare nel sud Italia, ed è dedicato ad Annabella Miscuglio. Senti, com'era nata la spinta a realizzare questo lavoro? È nata perché praticamente io frequentavo negli anni 80 questa casa di Annabella sopra il cinema Film Studio, e insieme a suo figlio, ero una giovane studentessa di cinema, e praticamente poi negli anni 90 si sono persi di vista, e poi lei mi chiama un giorno e mi dice: Manuela, io sei nella lista delle persone che vorrei salutare prima di morire. E quindi io così aderì a questa chiamata, poi in realtà non l'ho più lasciata e sono stata con lei questi ultimi 6 mesi, che tra l'altro sono trascorsi in modo assolutamente sereno, guardando film, buttando appunti per un'ipotetica sceneggiatura, eccetera. E poi con Silvana Silvestri, compagna di strada sua anche con suo studio, amica di tutti loro, a metà, io sono la generazione del figlio di Annabella, Piero Alto, che ha anche interpretato nel film da Gabriella Ghiera, e che praticamente il film racconta non solo le vicissitudini cinematografiche ma anche familiari, lo scontro generazionale madre figlio, madre appassionata e figlio più pragmatico. E quindi io e Silvana per tanti anni ci siamo chieste come fare a rendere omaggio a una regista, comunque ad un'opera anche molto particolare, perché Annabella non ha fatto dei veri e propri film, però è come se avesse pervaso lei, e un altro che volevo citare prima, Alberto Grifi, no? C'è un'opera sì, estremamente particolare, fuori completamente dagli schemi, anche frammentaria, difficile da ricostruire, in modo però degno, insomma, che si avesse comunque un qualcosa che forse sarebbe potuto piacere anche a lei. E finalmente dopo tanti anni, grazie anche alla, come dire, alla grande partecipazione corale di Laura Morante, di Gigio Alberti, di Giselle Davolo, di un casting per me stellare, siamo riusciti a concepire quest'opera molto di finzione, invece molto moderna, molto contemporanea, che sarebbe sicuramente piaciuto molto ad Annabella, e quindi a non fare una ricostruzione puntuale, ma una sorta di evocazione, omaggio a tutte le Arabelle, no? Che ci sono, maschi e femmine, che continuano a credere nelle loro passioni e per questo a scontrarsi con il mondo. Sì, e mi sembra anche un omaggio, un bel omaggio alle monosala, nel senso sì. Che sicuramente il pubblico è in costante declino e molte sale stanno chiudendo, però sicuramente le multisala insomma godono ancora di buona salute, ma è un concetto di fruizione del cinema piuttosto che di socialità che era legata insomma ai cineclub e alle monosale. Sì, la monosala è un po' come chilometro zero. Io penso che come oggi è più facile parlare di chilometro zero che di cinema, no? Sì. Però in realtà il buon cinema è come la buona rapa rossa dell'orto, del contadino, nel senso che è una cosa assolutamente piacevole, che ci arricchisce, che ci rende la vita più variegata, come la differenza, la biodiversità, no? Quindi, però che cosa significa oggi fare la biodiversità anche nella cultura? Secondo me significa comunque alzare molto il paletto. Bisogna essere, mentre negli anni 70 e 70 si poteva stare su delle seggiole di legno perché si era completamente catturati dalle proprie passioni, adesso forse comunque ci sono due o tre regole imprescindibili, cioè bisogna comunque avere le poltrone comode, non so, ecco, io credo che bisogna comunque trasformarsi in qualche cosa. La rapa rossa del contadino oggi, coltivare biologico è una cosa che costa più fatica, costa più soldi, costa più investimenti sociali fare il biologico, cioè capito cosa voglio dire? Sì, non so. Se mi sto spiegando, non è abbassare la guardia e dire torniamo alle seggiole di alle panche di legno, no, al contrario, andiamo ancora più avanti e cerchiamo di fare veramente un cinema straordinario che però racconti e sia un modo di approfondire il nostro rapporto con la vita, con gli altri, no? Non sia soltanto una slot machine, insomma, una cosa così, ecco. Sì, quindi sì. Io sono convinta, tra l'altro, vedendo anche cosa sta succedendo all'estero, per esempio in Francia, che queste piccole sale stanno veramente rinascendo, però certo con dei parametri diversi, con una programmazione più articolata, con dei sistemi anche di proiezione più sofisticati, però porto sempre esempio di un piccolo paesino della Provenza che io frequentavo da piccola, dove per 15 anni il cinema locale è stato chiuso, adesso ha riaperto e con questi nuovi parametri c'è sempre la coda fuori, anche in estate, quindi io sono ottimista, ecco. Bene. Senti, le modalità di uscita del film? Esce oggi, al momento abbiamo 25 sale in tutta Italia. Sono 5 sale a Roma, 3 in Puglia, 2 a Milano, poi anche in altre piccole città come Pescara, come Padova, insomma direi che la Bolero ci ha assicurato una copertura molto lusinghiera, speriamo che vada avanti e che le persone aderiscano a questo richiamo appunto un po' in filigrana, un po' da amatori, appunto da chilometro zero, e che lo vadano ad assaporare. Senti, c'è anche in rete una pagina Facebook, un sito internet a disposizione? Sì, certo. E letadoro, www.letadoro.it. Benissimo. Tutto attaccato senza apostrofi, accenti, niente, Letadoro. Benissimo. Allora, un abbraccio, un in bocca al lupo e a risentirci presto, Emanuele. Viva il lupo, mi dico, se dice. Esatto, lupo. Esatto. Grazie mille. Ciao e a presto. Grazie. Ciao. Grazie, a presto. Salute. Emanuela Piovano, regista del film L'età d'oro, in uscita in sala oggi, giovedì 7 aprile. Avremmo dovuto sentire anche un altro ospite, Gianluca Curti di Minerva Pictures, per parlare della presentazione del film Umano Non Umano di Mario Schifano in versione restaurata, che sarà presentato al teatro il Caffè Teatro Quirinetta qui a Roma mercoledì prossimo 13 aprile, però non riusciamo a contattarlo, e allora vi do questo appuntamento e vi dico anche che c'è stata una promozione a favore di Visionari da parte di chi ha organizzato l'evento, per cui i primi 10 che telefoneranno, che si metteranno in contatto, potranno avere ingresso libero a questo, a questa presentazione del film di Mario Schifano, scrivendo a questa mail. Prendete nota: g.giovannini@minervapictures.com. Allora, ripeto, per la presentazione del film Umano Non Umano di Mario Schifano in versione restaurata, che ci sarà al Caffè Teatro Quirinetta qui a Roma il prossimo mercoledì 13 aprile, i primi 10 che scriveranno a questo indirizzo mail avranno libero ingresso a questa presentazione. Vi ridò l'indirizzo email: g.giovannini@minervapictures.com. Minerva Pictures scritto. Benissimo, è tutto per Visionari. Baci, abbracci, buon proseguimento. Torniamo giovedì prossimo dalle 14 alle 15.